Siamo a visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri subito alle 13:30 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page trovate Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sempre sull'home page del sito della radio, colonna centrale la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, siamo in collegamento con Giorgette Ranucci di Lucky Red per parlare dell'uscita in sala ieri del film L'Insulto. Intanto, Giorgette, ben ritrovata su queste frequenze. Ciao, ben ritrovati anche a voi. Un film che mi è piaciuto veramente molto, gli abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena, lo considero tra i 5 migliori film dell'anno, te lo posso già dire così subito. Sono contenta, io lo considero tra i primi 3 film dell'anno. Sì, sì. Allora, Giorgette, per chi ci ascolta, raccontiamolo brevemente. Allora, è un film libanese, il regista è Ziad Doueri e racconta un malinteso, un piccolo incidente banale che però tra un palestinese e un cristiano libanese, che provoca una rissa, diciamo, a livello personale, ma che poi diventa brevemente, vista la situazione anche interna del Libano, un caso nazionale, un film che cresce fino a scoppiare in una bolla enorme che finisce con un processo in un tribunale. È un film che ha comunque, al di là degli aspetti politici, una forza, una potenza sul rapporto tra umanità diverse, è un rapporto di dignità ed orgoglio, io lo definirei proprio così. Sì, sì. Si parla molto anche della situazione sociale e politica nel paese e anche di un passato doloroso. Sì, certo, questo si racconta. Comunque la situazione del Libano è una situazione molto, molto controversa, dove nulla è definito chiaramente. I palestinesi che vivono in Libano riportano le ferite dei tempi della guerra, i libanesi hanno anche loro nel passato avvenimenti storici che li hanno sconvolti, ma al di là dell'aspetto politico del Libano potrebbe succedere in qualsiasi altro posto, dove un banale incidente diventa poi il motivo per riportare alla luce le umanità, le sofferenze, tutto quello che può provocare una storia diversa in due persone e in due posizioni diverse, ecco. Oh, Giorgette, di questo regista conoscevamo già qualcosa in Italia in precedenza? Sì, io proprio noi come Lucky Red avevamo fatto mi pare che era il suo primo film, che si chiamava West Beirut, che era passato, se non sbaglio, alla Kenzen a Cannes. Poi c'è stato un altro film che lui ha fatto che si chiama The Attack, che è stato poi la causa di un improbabile e ridicolo arresto al ritorno da Venezia con la Coppa Volpi in mano, perché Attack l'aveva girato in Israele e questo naturalmente per il Libano è una forma di delitto in qualche modo, quindi l'hanno arrestato appena rientrato da Venezia con la Coppa, mentre il giorno precedente il Libano aveva nominato questo film proprio per la corsa agli Oscar come miglior film straniero per il Libano. Senti, all'estero che risposte ha avuto? È venuto il regista Ziad a Roma, ci ha raccontato che il film è uscito solo in Libano, e dove è uscito con un numero di copie straordinario per un paese così piccolo che non ha tanti cinema, e c'è stata una reazione prima chiamiamola di sospetto, ma poi è il primo film al box office, è uscito il 15 settembre e ancora in sala. Noi siamo il secondo paese ad uscire e a fine gennaio uscirà in Francia, ma è stato venduto in tutto il mondo. Georgette, una tua opinione personale, quali sono gli elementi che più ti hanno convinto? Mi ha convinto un modo, soprattutto anche dal punto di vista cinematografico, un modo di girare, chiamiamola l'americana, in genere il processo, il verdetto, quel tipo di film è molto legato alla cinematografia americana, peraltro il regista ha vissuto 18 anni in America. E la parte processuale del film, dove appunto si devono difendere il palestinese e il libanese e i loro avvocati, l'avvocato palestinese è una donna che è figlia dell'avvocato poi libanese che difende il Tony, diciamo il protagonista, quella parte lì è una parte secondo me veramente mozzafiato, nel senso che alla fine di quel processo io mi sono detta: ma allora siamo veramente proprio tutti dei poveracci, nel senso che non riusciamo a riconoscere e dare un nome alla giustizia. Sì, sì, sì. Senti, quante sale sarà? Sarà in 70 copie, in sale ovviamente di qualità, perché abbiamo fatto delle anteprime scorsa settimana e c'è stata una reazione molto molto buona, un passaparola straordinario, anche perché nessuno si aspetta da un nome così esotico come Ziad Doueri, che se uno può confondere con un regista iraniano, israeliano, e da un film che poi ha vinto anche la Coppa Volpi come miglior attore, non si aspetta un film che proprio prende come un grande thriller americano. Sì, poi come dicevi te, l'universalità del film e del tema è dato dal fatto che in ogni dove poi le piccole storie, i piccoli drammi e personali vengono usati come cassa di risonanza da altri per i propri scopi. Sì, sì, ma io invito il pubblico ad andarlo a vedere, al di là appunto da alcuni pregiudizi che possono essere su un film come lo chiamo io esotico per un pubblico normale, ma usciranno veramente sconvolti, ma sconvolti in senso positivo. Non c'è mai un attimo di noia, non c'è mai un attimo di didascalia. Cammina veloce, veloce, veloce, e mentre cammina veloce ti accorgi che tu stai imparando qualcosa e che comunque ti senti anche in qualche modo anche tu accusato. Georgette, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Georgette Ranucci di Lucky Red sulla distribuzione del film L'insulto di Ziad Doueri, in uscita in sala. Uscito ieri in sala mercoledì 6 dicembre. Alberto Squarcia, curatore della mostra Cinema Erotico 60-70-80, Manifesti e Locandine, Modena Fiere dall'8 al 10 dicembre. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Sono molto contento di essere nel vostro programma perché mi piace molto. Dimmi. Allora, no, mi incuriosiva molto questa mostra, perché si parte, intanto da locandine, manifesti di grandi e bravi disegnatori che hanno dedicato la propria opera al cinema, e poi di capolavori che hanno subito censure pesanti a partire dai grandi maestri fino ai minori. Insomma, raccontaci un po' com'è nata, come l'avete pensata. Allora, io sono responsabile dello studio Archea 900 di Ferrara, che da anni organizza mostre e eventi culturali sul design, sull'arte, sul cinema in tutto il mondo. Inoltre sono presidente della Ferrara Film Commission. Ecco che stanno venendo idee, diciamo, riguardanti il cinema. Abbiamo appena fatto, quindi dico un piccolo antefatto, abbiamo appena realizzato a Ferrara come Film Commission una mostra su Sandro Simeoni, che è uno dei più grandi illustratori del cinema, con i suoi manifesti originali, e abbiamo scoperto essere di Ferrara, vissuto tutta la vita a Roma, ma era originario di un paese, di un piccolo paese in provincia di Ferrara. Quindi Sandro Simeoni, dopo Sandro Simeoni è arrivata questa, un collezionista di Verona, un socio della Ferrara Film Commission, ma un amico, un architetto, io anch'io sono architetto, ha questa collezione di manifesti sul cinema erotico. Ecco allora che nasce l'idea di presentarla per la prima volta qui a Modena, alla fiera 7-8-900, una fiera storica ormai consolidata di antiquariato, modernariato, design, con questi manifesti. Manifesti, locandine, fotobuste, eccetera, con film però importanti, cioè con film, con nomi, con registi di Samperi, Germi, Sordi, Mario Vicario, quindi tutti film di registi e illustratori famosissimi, Tinto Brass, Lattuada, ecco, titoli Bertolucci, Pasolini anche, se non sbaglio. Pasolini, certo, i film di Pasolini che all'epoca, quando uscirono, fece L'ultimo tango a Parigi di Bertolucci, che fu ultra censurato, e se vogliamo questa è stata anche la fortuna di questi film essere censurati all'epoca, perché poi la curiosità la spinge poi ad andare a vedere cos'è questa censura, perché è stata fatta, eccetera. Quindi diciamo, presentiamo una serie di film di cui posso darti o dei titoli o i registi o, che rappresentano quel filone nato dagli anni 68-70, la liberalizzazione dei rapporti tra uomini e donne, i comportamenti diversi determinati da quell'epoca. Ecco, il cinema poi ne ha, come dire, un po' approfittato, ha cominciato a realizzare dei film più liberi, più in cui l'erotismo era il protagonista, ecco. Quindi naturalmente la magia del cinema unita però alla forza dell'erotismo, dell'amore, della sensualità, e della sessualità intesa in maniera non volgare, perché stiamo parlando di, per esempio, Il fiore delle mille e una notte del 74, I racconti di Canterbury, sempre di Pasolini del 72, quindi film fatti da grandi registi che però, diciamo, all'epoca suscitarono molto, molto scandalo, ecco. Sì. Quindi l'argomento è questo: l'impero dei sensi, Emanuele, Castri pura, Malizia, Ecstasy, i titoli sono questi, no? Senti, quanto materiale avete a disposizione? Allora, il materiale, la collezione è vasta, ecco, però in questa occasione presentiamo 45 manifesti con le relative locandine, i più significativi di questo tipo di cinema, che ebbe il suo declino negli anni 80 con filmetti, diciamo, di livello molto basso, ma nei primi anni i grandi registi si cimentarono in questo cinema, per cui, cioè, appunto, ti ho citato Germi, Samperi, addirittura Sordi, no? Fece un film importante in quegli anni, ecco, Il comune senso del pudore del 76 di Alberto Sordi, ecco. Quindi sono grandi nomi del cinema si intrapreso questa strada, quella del sfruttare, se vuoi, un po', insomma, comunque di aprirsi a una tematica diversa, quella della coppia, dell'erotismo, della sensualità. Quindi questa è un po' la mostra che presentiamo qui, e io spero che praticamente si allestisce oggi pomeriggio, spero che nei prossimi 3 giorni, ne sono certo, molto pubblico verrà a vedere, perché l'argomento incuriosisce. Certo. Alberto, ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Sì, certo, adesso praticamente ormai è tutto in sui social, quindi in Facebook si può trovare Archeo 900 e poi faremo delle pagine proprio per questo nei prossimi giorni, ecco, per questa mostra che vorremmo far girare. Ecco, sarebbe interessante che fosse richiesta da altre realtà, insomma, interessate al cinema e a questo tipo di cinema, e quindi siamo disponibili per farla circolare. Quindi www.archeo900.com. Benissimo. E comunque in Facebook lo stesso Archeo 900 lo si può trovare e avere notizie della mostra e dove si trova in questo momento. Ecco. Alberto, io ti ringrazio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, ti ringrazio e complimenti per il programma, andate avanti che è interessantissimo, lo seguo in online. Bene, grazie, ti ringrazio. Ciao Alberto. Ciao, grazie. Alberto Squarcia, curatore della mostra Cinema Erotico 60-70-80, Manifesti e Locandine, a Modena Fiere dall'8 al 10 dicembre. Eccoci con Filippo di Recommon. Recommon, che ha prodotto il documentario El Secreto della Bellezza, Pueblos en Defensa de la Tierra, che sarà presentato oggi alla Città dell'Utopia qui a Roma. Filippo, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, ci racconti un po' di... intanto partiamo dal documentario che avete prodotto, dici un po' di questa storia. Beh sì, in realtà sono due storie di due comunità del Chiapas che negli ultimi due anni si sono auto-organizzate per fronteggiare comunque gli attacchi di alcune multinazionali, soprattutto nel settore delle miniere e dell'estrazione petrolifera, e quindi hanno riscoperto come organizzarsi e come difendere il territorio, appunto partendo dal loro attaccamento alla terra e dal loro bisogno che hanno di alimentarsi secondo le metodologie tradizionali. Senti, cosa vi ha messo in comunicazione con questa storia e come avete poi deciso la produzione di questo documentario? Sì, molto semplicemente è stato un documentario che siamo riusciti, grazie al regista Néstor Abel Jiménez, a costruire di fatto in 4 mesi. Io ho vissuto 8 mesi in Chiapas e lì avevo potuto conoscere queste due, ma anche altre comunità, e gli altri compagni Recommon sono venuti per un viaggio per scoprire queste comunità intorno a maggio, e da lì abbiamo cominciato a capire un po' le chiavi di lettura che volevamo dare al documentario insieme al regista, ed è venuto fuori rapidamente, e secondo noi dà molto il senso di come stanno resistendo questi territori e soprattutto di chi vive questi territori. Perché delle comunità si stanno ricreando anche non solamente perché combattono contro dei megaprogetti o dei progetti di estrazione, ma perché questa cosa è naturale nel vivere quelle terre. Senti, com'è strutturato il lavoro? Si racconta il quotidiano, i momenti vertenziali, ci sono interviste? E soprattutto sono interviste che però non sono interviste con lo specialista di turno per forza, ma sono le comunità che si raccontano, quindi si raccontano sia nelle loro problematiche che hanno con lo Stato, sia con le multinazionali, ma soprattutto nella loro quotidianità e nelle loro forme di organizzarsi. Ci sono anche delle parti in cui si vedono degli strumenti che semplicemente loro usano per accogliere nuove persone in comunità, per comunicare con più persone, degli strumenti di organizzazione, ecco. Senti, per quanto riguarda invece l'iniziativa di oggi, ci racconti un po' com'è strutturata? Sì, certo, alla Città dell'Utopia tendenzialmente inizieremo subito per le 7:30 con l'aperitivo, successivamente ci sarà una presentazione di Recommon, anche della pubblicazione completa con cui esce il documentario, che la pubblicazione si chiama Il Saccheggio, racconti dal Chiapas e dal Messico passando per la Buona Scuola, perché abbiamo deciso di parlare di Chiapas senza allontanarci dall'Italia, cioè provando a dare delle risposte e degli esempi anche sul modello neoestrattivista nel nostro paese, che ovviamente è una tematica difficile, complicata, però la nostra idea di neoestrattivismo è un estrattivismo che non estrae più solamente delle risorse primarie, dei minerali o del petrolio, è un estrattivismo che pensa di rigenerare il territorio in base ai suoi interessi e quindi calpestare le comunità che lo vivono o cambiare i loro sistemi sociali, i loro sistemi comunitari, è tanto estrattivismo quanto semplicemente l'estrazione del petrolio. Senti, a questo... dopo questa vai. No, dico, dopo questa presentazione vedremo il documentario e poi ci sarà il regista e Giovanni Cattaruzza del Nodo Solidale, insieme a loro due proviamo, come abbiamo fatto nelle altre presentazioni, a dare un po' un'idea del contesto messicano oggi e soprattutto il ruolo centrale di questi progetti che si chiamano zone economiche speciali, di cui si parla anche nel documentario e che nel breve medio periodo interesserà anche l'Italia. Ok, ci lasci tutti i riferimenti internet? Certo, allora per gli aggiornamenti per oggi sicuramente la pagina Facebook della Città dell'Utopia e la pagina Facebook di Recommon e il sito di Recommon, che è recommon.org. Benissimo. Quindi cominciamo alle 7:30 e credo che avremo ampio spazio anche per il dibattito e per capire come nessuno abbia interesse a vedere il Chiapas come un posto esotico, visitare la loro lotta e dimenticarcelo, ma come vedere delle ricadute, delle ripercussioni e delle ispirazioni anche per le nostre lotte in Italia. Un abbraccio Filippo, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao. Fabrizio di Recommon, che ha prodotto il documentario El Secreto de la Belleza, Pueblos en Defensa de la Tierra, di Néstor A. Jiménez, La Città dell'Utopia, qui a Roma, oggi giovedì 7 dicembre. Ed eccoci con Esmeralda Calabria, co-regista del documentario Lievito Madre, le ragazze del secolo scorso, che sarà in programmazione al Cinema Spazio Oberdan a Milano dal 12 al 23 dicembre, alla presenza delle due registe, cioè Esmeralda e Concita De Gregorio. Esmeralda, intanto ben ritrovata su queste frequenze. Grazie, ciao Federico, ciao a tutti. Allora, firmato da voi due, questo progetto, ci racconti un po' come nasce, qual è stata l'idea? Guarda, il progetto nasce da un progetto precedente che si chiama Cosa pensano le ragazze, che è stato iniziato appunto da Concita, che erano una serie di interviste, circa 1000 interviste, diciamo, fatte in tutta Italia, e a ragazze, quindi tutte donne dai 5 anni ai 90 praticamente, quindi una specie, come dire, di excursus, diciamo, italiano, con, diciamo, delle domande che riguardavano soprattutto proprio cosa pensano delle ragazze, quali sono le tue paure, che cosa pensi quando sei innamorata, cosa vuoi fare, come vedi il tuo futuro, come ti vedi fra 10 anni, insomma in qualche modo una specie di visione appunto generale al femminile. E all'interno di queste interviste c'erano anche diciamo delle donne grandi, quindi insomma, tra gli 80 e i 90 anni, alcune sconosciute, altre invece un po' più conosciute, tra cui Luciana Castellina, Cecilia Mangini, Dacia Maraini. E a un certo momento, dopo 3 anni, ci siamo dette: beh, queste persone sono un riferimento per noi, sono state, come dire, delle maestre e continuano a esserlo della nostra vita, e fermiamo questo loro pensiero. E la cosa, diciamo, che ci sembrava anche interessante e un po' diversa dal solito era il fatto che loro non parlavano, cioè non parlano di quello che loro fanno, cioè di cosa, della politica, non parlano della scrittura, non parlano del loro essere scrittore, del loro essere documentariste, ma parlano di sé, cioè, e di sé nel senso adesso non voglio dire dell'essere donne, perché comunque non voglio fare un discorso di genere, ma insomma di tutto quello che loro hanno pensato e provato quando hanno cercato di lavorare, di fare delle cose, il rapporto con il proprio corpo, con le proprie paure. Quindi non so, Luciana Castellina dice: ho avuto tante volte la tentazione di tagliarmi le tette per nascondere la mia femminilità, ecco, per nascondere il fatto di essere una donna, no? Mi vergognavo di essere, cioè cercavo di essere il più possibile un uomo, no? Quasi tutte dicono: per fare questo lavoro ho cercato di nascondermi, di travestirmi da uomo, perché era più semplice, no? E sì, questa è una cosa che mi ha colpito molto, che secondo me, almeno come dire, un po' personalmente, un po' la nostra generazione vive ancora un po', no? Cioè questo fatto che a volte questa, la femminilità, diciamo, che paura della propria femminilità, paura che venga in qualche modo intercettata in maniera sbagliata, no? Dal tuo interlocutore maschile o anche non maschile, da chi comunque ti deve dare fiducia in un lavoro, in una cosa. Quindi insomma, ecco, diciamo, anche se molte cose sono cambiate poi per fortuna, però nello stesso tempo credo che un po' questa paura, diciamo, questo sottrarre, diciamo, la femminilità in nome di un'intelligenza ci accompagni sempre ancora un po', no? E poi anche le cose che sono capitate ultimamente, insomma, se vuoi, le cose, le molestie, tutte queste cose qui, no? C'è sempre sempre a che vedere con la femminilità, no? Quanto eri femminile, quanto hai provocato, quanto, diciamo, no? Sì. Quanto non hai usato il cervello, hai usato il tuo corpo, insomma, ecco. Pronto? Sì, ti sento. Esmeralda, la scelta delle interlocutrici? La scelta, guarda, di inserire, diciamo, queste persone erano anche, diciamo, le persone, le donne, quel tipo di donna che si sono offerte con maggiore generosità, diciamo, secondo me, no? A parlare di se stesse. Per cui, diciamo, c'erano tante persone non famose, ma di queste persone famose, ma non tanto perché erano famose, ma più che altro perché erano in qualche modo riconoscibili, no? Quindi erano persone, che donne che avevano fatto qualcosa nella loro vita, che erano diventate donne pubbliche, quindi la scelta è stata più che altro della loro, appunto, disponibilità a mettersi in gioco, a essere sincere, a essere, no? E magari altre non lo sono state meno, cioè sono, quindi è stata una scelta, diciamo, proprio legata a quello che loro dicevano, insomma, ecco, al fatto che loro alcune si sono raccontate di più, altre si sono raccontate di meno, no? E quindi questa è stata la scelta fondamentalmente. Sì. Senti, l'articolazione del documentario, nel senso l'inserimento di filmati d'archivio e le musiche? Guarda, allora, sui filmati, allora lì c'è stata un'altra cosa. I filmati, diciamo, non sono fondamentalmente di archivio, a parte due cose dell'Istituto Luce, insomma, così, appunto, che riguardano un po' Nada, la presenza di Nada, ma in realtà sono tutti filmini personali, sono filmini proprio Super 8, molti sono miei, alcuni di Concita, e molti anche di Luciana Castellina, che suo padre, sono degli anni 30, che suo padre girava, si era fatto mandare addirittura una macchina da presa, una 16 mm con cui, a cui costringeva fra l'altro, diciamo, Luciana Cassettina, i fratelli, le sue amichette, le cugine, a fare delle scenette, a travestirsi, per cui insomma tutte le scene ci sono loro che proprio organizzano, fanno finta di fare un naufragio e poi si travestono, si mascherano, così come i filmini di in famiglia che mi appartengono sono tutti giochi, mini storie che i miei genitori si inventavano e riprendevano, per cui in qualche modo, diciamo, non c'è stata, cioè è stata abbandonata l'idea assolutamente di inserire materiale di repertorio che ricordasse un'epoca, quindi che ricordasse l'epoca in cui queste donne intervistate appunto avevano vissuto, oppure quindi di non fare un discorso, ma soprattutto, diciamo, di raccontare delle microstorie, cioè di persone che non appartengono esattamente, diciamo, alle intervistate, questi filmini, ma sono delle piccole storie di altre persone, e col tentativo di fare un piccolo film, non so come dire, un film parallelo, diciamo, mentre loro parlano c'è anche la vita delle altre persone che è un po' la loro stessa vita, ecco, sì, sì. In qualche modo. Senti, l'uso della musica, ah, ecco. Vabbè, per me poi è fondamentale, cioè, nel senso che la musica per me è parlante, cioè fa parte proprio nel mio modo, diciamo, di lavorare, desiderio, diciamo, che ho più grande quando ho a che fare con delle immagini, e l'uso della musica possibilmente è quello di renderla parlante, quindi di entrare in relazione, diciamo, non solo con quello che loro dicono, ma anche musicalmente farla diventare parola, ecco, un po' complicato da spiegare come concetto, però sì, insomma, e c'è la musica di Valerio Faggioni, che è un musicista che con quale cerco sempre di lavorare, che usa tantissimo musica elettronica, nel senso che costruisce suoni lui autonomamente, spesso abbiamo usato, non so, suoni di generatori di corrente o mescolando, creando, costruendo tante tracce e producendo sempre qualcosa, ecco, secondo me di bello, ecco. Sì. Non è mai una musica di commento, ecco, cercato di evitare di fare una musica di commento. Senti, questa uscita all'Oberdan, cui sarete anche presenti, non so se a tutte le proiezioni, ma credo almeno al debutto. Sì, sì, bello, bellissimo, no, non solo all'Oberdan, quindi diciamo che esce il 12 e Concita credo che ci sarà del 12, 13 e 14, sì. Insomma più o meno i primi tre giorni ci saremo anche insieme. Esce a Bologna anche l'11 alla Cineteca di Bologna e sta una settimana anche lì, e poi da gennaio, insomma, uscirà a Pisa, riuscirà a Firenze, perché ha già fatto un'uscita a Firenze al Cinema La Compagnia, grazie anche molto alla FICE, che è appunto l'associazione degli esercenti del cinema dei film d'essai, che in qualche modo lo sta promuovendo, e ci sono tantissimi esercenti disponibili a proiettarlo, quindi siamo molto molto felici, soprattutto, insomma, è stato così inaspettato perché la distribuzione, come tu sai bene, certo. Non solo dei film, ma anche soprattutto dei documentari o delle cose indipendenti, assolutamente, insomma, è una montagna da scalare, per cui l'idea che ci sia una disponibilità di diversi cinema in Italia è una cosa bellissima, proprio sì. Bellissima, non ci crediamo. Senti, ho visto che per ulteriori informazioni online, ho visto che c'è anche una pagina Facebook del documentario. Sì, c'è una pagina Facebook, Lievito Madre, e c'è anche il sito, cioè un sito dove si possono comunque trovare, appunto, diciamo, le immagini, le clip, le informazioni e tutto il resto, per cui insomma verrà promosso su Facebook, penso che l'abbiamo già inserita nella pagina Facebook, e poi niente, insomma, io questo. Benissimo. Spero che continui, poi tra l'altro insomma andremo anche un po' a qualche proiezione fuori Italia, a Bruxelles, a Parigi, per cui insomma, ecco, questo è benissimo, una cosa bella. Benissimo. Molto bella. Allora Esmeralda, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille a te, buon lavoro, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, Conchita, ciao. Se ci stai sentendo. Ciao. Ciao.

un regalo meraviglioso che Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura ci hanno fatto regalandoci due loro improvvisazioni che non esistono sui dischi ma che sono state fatte e usate per Beo, quindi possiamo dormire sonni tranquilli. Bene, bene. Allora io vi ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci alla prossima. Grazie molto di questa ospitalità e auguri per la trasmissione che è molto molto interessante. Grazie, ciao, grazie. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio a voi, ciao ciao. Stefano Viali e Francesca Pirani, registi del documentario Beo, vincitore del Rome Independent Film Festival 2017. E questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, trovate anche tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, idem sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Federico Francioni, regista del documentario The First Shot, vincitore del Visioni Fuori Raccordo 2017. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, dici un po', parliamo intanto del tema di questo tuo lavoro. Sì, questo è un film che ho fatto, realizzato col mio coautore Yan Chen, che è un ragazzo cinese che è venuto a studiare in Italia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Noi ci siamo conosciuti lì e noi avevamo già lavorato insieme per un cortometraggio che insomma è andato abbastanza bene e volevamo provare a fare un film insieme, e tutto è nato perché Yan Chen è tornato in Cina nel periodo del Capodanno cinese e aveva parlato con questi tre suoi amici. E quando è tornato in Italia ha detto: guarda, questa volta, per la prima volta, ho sentito un senso di spesamento, di angoscia. E quindi diciamo l'idea del film è nata da lì, cioè di raccontare questa giovane generazione di ragazzi nati dopo l'89, quindi dopo Tiananmen, dopo quest'ultimo momento diciamo quasi rivoluzionario, e cresciuti all'interno del boom economico della Cina, che è uno dei boom immensi insomma negli ultimi 20 anni. Sì. Ragazzi cresciuti in un mondo che cambiava ogni giorno, e chi si trovano a 20-23 anni senza approdi, senza figli, insomma. Sì, sì, sì. Senti, come avete pensato di strutturare questa ricerca? Come l'avete sviluppata? Guarda, inizialmente gli Ancelli, questi erano suoi amici, quindi in realtà abbiamo fatto un film su tre persone che lui conosceva molto bene, io non li conoscevo affatto. Ok. Abbiamo elaborato un po' il progetto in fase di scrittura prima di partire, avevamo individuato un po' dei nuclei tematici, delle cose che ci interessavano, e poi quando siamo andati lì siamo stati 3 mesi e mezzo in Cina, quindi insomma è stata una scoperta continua, un continuo approcciarsi alla vita di questi ragazzi, perché poi la cosa che ci interessava più di tutto era cogliere proprio l'intimità della loro vita quotidiana, quindi in realtà siamo stati abbiamo vissuto con loro, siamo stati dentro le loro stanze per cercare di cogliere proprio questo senso di spaesamento, questo senso di un po' di disorientamento nella Cina contemporanea. Ecco, che impressioni hai avuto rispetto a queste storie e a questa realtà? Ma guarda, la cosa interessante è che diciamo, noi abbiamo creato un po' un'interpretazione della vita di questi ragazzi mettendo le loro storie all'interno della grande storia, quindi diciamo iniziando con questo primo sparo rivoluzionario del 1911 che si conclude idealmente con Tiananmen, e quindi diciamo questo è il passato dei personaggi, cioè è tutto quello che viene prima delle loro vite, quindi in realtà questo ci ha dato un po' la direzione per quanto riguarda la Cina contemporanea, solo che poi in realtà quello che stanno vivendo questi ragazzi non è poi molto lontano da quello che si sta vivendo anche qui in Europa, insomma un senso di spaesamento e anche di disorientamento rispetto a una cultura, rispetto a tutta una serie di certezze che vengono meno. Quindi in realtà il film si è rivelato essere molto più universale di quello che potrebbe sembrare, insomma, cioè non è soltanto un racconto sulla Cina. Ecco, posto che la Cina è praticamente un continente, come viene vissuto l'esterno? Guarda, in che senso dici? Da loro tutto ciò che sta fuori dalla Cina. Certo, ma guarda, in realtà c'è questa gioventù, i ragazzi con cui abbiamo parlato noi, tutti i ragazzi di 20, 23, 25 anni, c'è un'enorme apertura, anzi spesso sono figli, diciamo, di una borghesia che si è arricchita nel giro di pochissimi anni. E quindi, diciamo, loro mandano i figli a studiare in Europa, in America, soprattutto all'estero. Quindi in realtà molti di questi ragazzi sono molto occidentalizzati, e anche tutto questo problema della censura, diciamo, loro lo vivono in modo anche relativamente, insomma, leggero, ecco. Cioè, ci scherzano su, lo prendono in giro, sanno che ovviamente esiste. C'è uno dei personaggi del film che appunto fa l'artista, ed è quello meno internazionale, perché è l'unico che è rimasto sempre in Cina e vorrebbe, cioè, ha creato un blog, un po' di critica verso il regime, facendo anche delle installazioni, una serie di attività, e lui è quello, diciamo, più colpito da questa cosa. Ma lui stesso, insomma, ci raccontava che i modi per aggirarlo ci sono, quindi in realtà c'è questa gioventù che è molto più mescolata nel mondo rispetto a quello che si pensi. Poi chiaramente sì, sicuramente ci sono delle zone più all'oscuro, ecco. Senti, dopo questo festival che percorso farai? Ma guarda, questo lo stiamo cercando di capire. Sicuramente, beh, adesso presentiamo il film ad Avellino alla Ceno d'Oro proprio sabato. Abbiamo altri appuntamenti così, ma diciamo quello su cui stiamo ragionando in modo un po' più concreto è provare a fare una distribuzione autogestita, cioè di portare veramente questo film al pubblico, perché poi ogni volta che dei film così, questo è un film fatto veramente con poco, girato anche col telefono in alcune parti, però chiaramente c'è un pensiero dietro, c'è un'interpretazione, e quindi quanto più riusciamo ad arrivare al pubblico, a far vedere questi film, a parlarne, meglio è. Quindi, diciamo, probabilmente in primavera proveremo a distribuirlo in diverse città, nei cinema, e vediamo come andrà, magari solo per un giorno, però la speranza è di incontrare quante più persone possibili. Ok, e per chi volesse saperne di più, a questo punto ci lasci anche dei riferimenti internet? Certo, beh, guarda, noi abbiamo una pagina, The First Shot, che è Cine Voyage è un po' il nome che abbiamo dato al nostro modo di fare film, anche perché è molto particolare, perché credo sia la prima volta al mondo che un italiano e un cinese fanno un film insieme. Ne abbiamo fatti due, non so se probabilmente riusciremo a farne anche qualcun altro, perché è un tipo di lavoro molto particolare, perché poi in realtà noi lavoriamo, ci confrontiamo direttamente o sulle immagini o appunto in modo molto concreto, perché la fase ideativa è quella un po' più complicata. Sì, quindi sì. No, c'è questa pagina The First Shot, dove sicuramente ci sono delle informazioni, e potete scriverci lì, potete seguirci lì, insomma. Io spero che probabilmente a Roma sicuramente faremo altre proiezioni in primavera. Benissimo, e allora magari ci sentiremo anche più in là. Sì, magari. Grazie mille Federico, un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao. Federico Francioni, co-regista del documentario The First Shot, vincitore di Visioni Fuori Raccordo 2017. Stefano Martina, direttore di Arcipelago 2.4, Festival di cortometraggi e nuove immagini a Roma, al Teatro Palladium. È cominciato il 4 e andrà avanti fino al 10 dicembre. Come ogni anno ci sentiamo. Ben ritrovato Stefano. Ben ritrovati voi, grazie per esserci così fedeli del tempo. Senti, ma quest'anno, questa edizione 2.4, c'è un arcipelago con la accerchiata, tra parentesi. Sì, beh, cioè è un richiamo testuale al nuovo logo grafico, che già dal 2015 ormai ci caratterizza. Ma insomma, è più un vezzo che altro, un vezzo grafico. Un vezzo, diciamo. Grafico. Senti Stefano, per chi non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche di questo festival? Beh, intanto la grossa novità di questa edizione è che per la prima volta dopo 24 anni, 24 edizioni, abbiamo iniziato un'attività con le scuole. una serie di proiezioni, tre per l'esattezza, oggi c'è stata la terza e ultima, dedicata esclusivamente agli studenti romani, dalle elementari fino alle superiori. E devo dire che sono molto sorpreso, perché il Palladium, che conta 500 posti tra platea e galleria, soprattutto con la prima e la terza proiezione è andato tutto esaurito, e questo ovviamente non può che farci piacere. Il futuro è lì alla fine. Sì. Senti Stefano, quanti lavori presentati in questa edizione? Ma sono un centinaio, sempre dando molta attenzione alle forme brevi, al cortometraggio, sia italiano che internazionale. Domenica partirà anche il concorso per la web series, che si concluderà online a fine gennaio. Abbiamo anche alcuni lungometraggi indipendenti e comunque per lo più inediti o in anteprima. Tra l'altro domani sera avremo l'opportunità, che a noi fa molto piacere, di proiettare in anteprima romana il primo film, il primo lungometraggio del vincitore del 2015 come miglior cortometraggio 2015, Morgan Simon, che nel frattempo ha esordito nel lungo e col suo primo film Comte de Blessure sta facendo una bellissima carriera nei festival internazionali. Lui, Morgan Simon, è in giuria quest'anno e, come dire, ricambia dopo aver vinto il premio con la sua presenza qui, e presenterà il suo primo film appunto domani sera per il pubblico romano alle 22 al Teatro Palladium. Questa è una cosa ovviamente che ci fa molto felici, perché noi continuiamo a seguire chiaramente i registi di corti che presentiamo e che lanciamo con il nostro festival, anche quando diventano grandi, come dire, diventano adulti sì, narrativamente parlando. Sì. Senti, la presenza appunto degli autori? La presenza degli autori è sempre molto significativa, nel senso che comunque è soprattutto un festival come dire, che mira ai contenuti e quindi alle forme narrative originali, non solo brevi appunto come ho detto, ma comunque che ci raccontano l'evoluzione di un linguaggio visivo che è in continuo mutamento. Quindi per noi la presenza degli autori è sempre molto molto importante, anche se si tratta di autori ancora in erba per lo più. Sì. Ma abbiamo visto cose selezionando i film veramente notevoli, anche di registi giovanissimi. Senti, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla programmazione? Certo, il sito è www.arcipelagofilmfestival.org e l'email di riferimento è info@arcipelagofilmfestival.org e abbiamo naturalmente una pagina Facebook che è Arcipelago Corto Festival. C'è poi qualche segnalazione a cui tenevi in particolare? Sì, perché quest'anno, buoni ultimi, visto che il festival si svolge a dicembre, celebriamo anche noi a modo nostro il 76, il movimento del 77, e lo facciamo naturalmente con una retrospettiva, ma anche con un incontro sabato 9 alle 20, sempre al Palladio, su quella che è l'eredità culturale del 77. Infatti abbiamo invitato, oltre che alcuni esponenti della gloriosa rivista satirica Il Male, anche alcuni attori, sceneggiatori come Angelo Pasquini, e registi che si sono occupati nei loro film del 77, appunto Guido Chiesa, Renato De Maria, eccetera, e per parlare di quella che è stata effettivamente, al di là del fatto politico del 77, anche, come dire, l'espressione di un'esplosione di energie creative anche che sono arrivate fino a noi. Molti sono diventati appunto registi, attori, arti, no? Dedicati ad altre forme di espressione artistica, eccetera. Quindi dal 77 in qualche modo è nata anche l'estate romana, il cosiddetto effimero, la riappropriazione da parte delle periferie del centro della città, in un periodo in cui la gente non usciva più di casa perché appunto era un periodo, è il periodo degli anni di piombo, eccetera. Quindi ci sono tanti percorsi diversi che si sono intrecciati, ma tutti a cominciare dal 76, quindi dal Festival del Proletariato Giovanile di Parco Lambro, immortalato e raccontato da Alberto Grifi nel suo documentario più famoso, tutto si è intrecciato in quell'anno fatidico e è arrivato fino a noi sotto le forme più diverse. Bene Stefano, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo fino al 10 dicembre Arcipelago 2.4, Teatro Palladium qui a Roma. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, ciao Stefano, a presto. Stefano Martina, direttore di Arcipelago 2.4, Festival di cortometraggi e nuove immagini. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità di dicembre. Paco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, come sempre. Bene, così ci diamo anche gli auguri per questa fine d'anno e inizio d'anno prossimo, visto che sicuramente ci sentiremo anche a gennaio. E Paco, allora, mi era arrivata la tua newsletter, ci racconti un po' cosa si muove? Sì, allora partiamo da DDB e per quanto riguarda appunto la piattaforma nostra di distribuzione opendb.it, questo mese abbiamo diverse nuove proposte. Abbiamo lavorato soprattutto sul fronte delle editorie indipendenti, perché per chi non lo sapesse la nostra piattaforma non si occupa solo di cinema, ma in realtà anche di progetti musicali e di progetti editoriali. E è uscito infatti tra le varie proposte di questo mese il terzo volume di Resistenza in Cirenaica, che è un libro, anzi è un percorso collettivo molto interessante che è ormai attivo da alcuni anni qui a Bologna, di come posso dire, un recupero anche di quello che è la memoria storica collettiva legata alla resistenza, all'antifascismo, ovviamente in chiave più contemporanea. È uscito adesso appunto il terzo volume di questa collana che è stata prodotta in questi anni, e vi consiglio caldamente di andare a dare un'occhiata anche agli altri due volumi, perché sono opere molto interessanti, soprattutto anche perché appunto sono frutto di un percorso collettivo. Sempre sul fronte editorie stiamo iniziando anche a ospitare nuove case editrici, tra queste proprio la romana Gorilla Sapiens, che è appunto una piccola casa editrice romana che da qualche settimana è arrivata sul nostro catalogo con alcune loro proposte, e da qualche giorno anche il libro dedicato alla storia di Radio Onda d'Urto, che immagino conoscete molto bene e che ovviamente per noi è molto molto importante, ed è un piacere avere finalmente anche la possibilità di circuitare questo libro che è uscito l'anno scorso, dedicato all'esperienza di Radio Onda d'Urto, e ormai insomma un'esperienza molto lunga, come sapete, certo, che anche come la vostra d'altronde, quindi insomma sono anche percorsi che è importante ogni tanto fissare anche su carta e sul libro, proprio per passare questi tutto questo anche alle generazioni future. Sì, sì. Abbiamo poi invece nella sezione cinema il nuovo lavoro di Ivan Grochny, che è l'autore di Pazestan, per chi non lo conoscesse, il film che fu girato appunto in Rojava ormai 2-3 anni fa, e questo nuovo lavoro, sempre molto con il taglio tipico di Ivan, quindi molto diretto e a volte anche molto crudo, è girato interamente in Messico, si chiama Entre la Espada, spero di dirlo giusto perché non è esattamente il mio forte, della lingua. E anche quello appunto è un lavoro molto attuale, molto fresco di uscita, perché è proprio uscito da poche settimane e sta già iniziando la sua tournée. E dopodiché, oltre di DDB, c'è l'altra grossa novità, non so se volevi parlare anche un po' di questa, perché finalmente siamo pronti con il nostro film. Eh sì, era arrivato anche questo, certo. Perché ovviamente, nel senso, a noi fa sempre molto piacere chiacchierare su quello che è il nostro progetto editoriale di DDB, ma poi noi nella vita siamo documentaristi e ogni tanto è anche utile che ce lo ricordiamo a noi stessi, perché poi ce lo dimentichiamo. Finalmente The Harvest sta arrivando, dopo appunto le anteprime estere, diciamo, che abbiamo avuto a Varsavia a fine novembre, con una menzione speciale del Film Festival di Varsavia e l'anteprima mondiale a Nuova Delhi in India, inizia finalmente la tournée di questo nostro nuovo film, un film che, per chi non lo conoscesse, miscela il linguaggio del documentario e del film con quello del musical, quindi è un'operazione molto azzardata, se vogliamo, e stiamo annunciando le prime nazionali del film. La prima assoluta sarà a Brescia, al Nuovo Eden di Brescia, sotto il periodo natalizio, il 22 di dicembre, e a gennaio poi ci sarà l'altra prima nazionale su Bologna, data ancora da diciamo da fissare, cioè via di definizione, e poi dopo queste due date il film partirà ufficialmente con la tournée e sarà ovviamente a disposizione di tutti e tutti per essere visto, diffuso, proiettato secondo i criteri che ormai ci contraddistinguono da anni, quindi l'utilizzo di licenze Creative Commons e un approccio che non sia per forza mercantilistico alla distribuzione di un'opera. Certo, certo. Senti, i riferimenti per saperne di più? Sul film, dici? No, in generale, anche sul documentario, chiaramente, ma anche su distribuzioni dal basso, su tutte le novità. Sì, esatto. Io vi invito a, appunto, seguire i due siti, appunto, rispetto a quello che vi raccontavamo. Uno è opendb.it, che è la nostra piattaforma on demand dedicata alle autrici e agli autori indipendenti in senso ampio, appunto, perché, come sapete bene, non ci sono solo documentaristi ma anche altri tipi di progetti. E dall'altra parte il sito del film invece, The Harvest, è www.theharvest.it, e su quel sito potete trovare non solo tutti gli aggiornamenti, i contenuti, ma anche appunto il percorso di tournée che questo film prenderà e che comunque passerà anche presto da Roma. Adesso stiamo, insomma, iniziando a fissare le varie date, quindi poi quando passeremo da Roma ovviamente ci risentiremo. Certo. Tra l'altro stavo ripensando che ogni tanto mi capita di intercettare progetti non solo teatrali ma anche di diverse discipline artistiche che scelgono DDB come piattaforma per le loro campagne di crowdfunding, quindi è un eterno ritorno, un convogliare di energie rispetto a percorsi vicini. Beh, sicuramente ormai è un modello alternativo abbastanza consolidato quello delle campagne di crowdfunding. Noi stessi appunto ci appoggiamo sul sito dei ragazzi di Produzione dal Basso da anni, c'è un ottimo rapporto anche di sinergia con loro, e quindi se si riesce piano piano, come si sta facendo in questi anni, ma come per fortuna facciamo noi ma anche tante altre realtà simili alla nostra, perché poi è un discorso di rete e di movimento dal nostro punto di vista. Vuol dire che forse, insomma, qualcosa sta riuscendo a muoversi, perché sì, come ben sapete la prima sfida è trovare meccanismi alternativi per riuscire a produrre un'opera, come abbiamo fatto per esempio su The Harvest, che è stato sicuramente anche da questo punto di vista il salto di qualità che stiamo cercando di mettere in piedi anche dal punto di vista dell'autofinanziamento. Ma l'altra metà della sfida è: ok, l'ho prodotto con un crowdfunding, e poi se poi le persone non sono in condizione di accedere a quell'opera, o comunque sei strozzato dai meccanismi dell'industria distributiva cinematografica, in questo caso, ma anche editoriale, il problema comunque non si risolve. Quindi trovare nuove formule di accesso alle opere sfruttando i lati positivi del web, perché se Dio vuole ci sono anche i lati positivi, è sicuramente la strada che noi e altre realtà in questi anni abbiamo tracciato anche in Italia. E che, tra l'altro, una cosa molto interessante è vedere, adesso che ormai da più di un anno OpenDDB è piattaforma multilingue europea, vedere anche le altre esperienze all'estero, quali tipi di problemi e quali tipi di domande e successivamente di risposte alternative si stanno dando, perché poi ogni paese ha le sue contraddizioni. Noi adesso con DDB abbiamo fatto diversi percorsi anche sulla Germania, la Francia, il Belgio, la Polonia recentemente, e vediamo ovviamente che in ogni paese come posso dire, il trend è lo stesso, cioè una società o comunque una fase storica dove non si investe sulla cultura fondamentalmente, probabilmente era così anche prima ma adesso è ancora più evidente la cosa, e di contro appunto esperienze nuove emergenti che chiedono a gran voce o si domandano a gran voce dei percorsi alternativi che si possono percorrere e che magari già che si percorrono si cercano anche di costruire in maniera più orizzontale, ecco. Vuoi anticiparci qualche novità del 2018? Ma allora adesso col fatto appunto che siamo anche molto concentrati sull'uscita del film, perché poi le forze in campo sono sempre insomma quelle che sono, siamo molto focalizzati, okay, su quella parte di lavoro. DDB comunque ha un suo percorso continuativo, investiremo ulteriormente nel settore editorie perché arriveranno anche altre case editrici sul 2018, quindi la sezione editorie indipendenti inizierà a essere corposa tanto quanto è quella del cinema e del documentario sulla piattaforma, e poi appunto abbiamo anche in trattativa una serie di opere documentaristiche tra cui, non so se ne avete sentito parlare, sta girando parecchio anche in Italia, è arrivato per via insomma nostre diciamo, il documentario di Antifascist che appunto è un documentario girato tra la Grecia e la Svezia e che ha già fatto dei mini tour anche in Italia, e probabilmente appunto sarà uno dei lavori che cercheremo di accogliere in piattaforma subito dopo le feste. Bene, avremo modo di parlarne. Paco, un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità di dicembre. Con Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Loveless in uscita in sala ieri, è uscito ieri mercoledì 6 dicembre. Alessandro, ben ritrovato. Grazie mille per essere presente con voi, e naturalmente siamo tutti trepidanti per questa uscita perché insomma è un film per noi molto importante, non solo per noi, insomma la critica lo ha giustamente riconosciuto, è stato forse il più bel film dell'ultimo Festival di Cannes, al di là del fatto che non ha vinto il primo premio, però è un autore che assolutamente il pubblico dovrebbe seguire e amare. Senti, lo raccontiamo brevemente? Ma sì, è un film che parte da uno spunto di una cronaca familiare disastrata, marito e moglie si stanno per separare, il problema diventa l'affidamento del piccolo figlio undicenne che ovviamente non può non essere consapevole di questa situazione di attrito tra i suoi e si sente veramente il terzo incomodo. Dopo alcune scene che il film ci mostra di litigi tra i due genitori che il figlio mal sopporta, in più la vendita della casa dove lui è cresciuto fino a quel momento, deciderà di abbandonare il tetto familiare e scappare di casa. Da qui parte il film e chiaramente avrà poi uno sviluppo, uno svolgimento molto simile a quello di un thriller, ma con la regia e la firma di un autore come Ziegler che chiaramente non si può paragonare a un thriller americano naturalmente, ma avrà delle note tutte particolari, ma questa storia poi è al tempo stesso lo spunto per fare un ennesimo affresco della Russia odierna, delle problematiche della società russa di oggi. Quindi un film estremamente interessante non solo dal punto di vista stilistico e registico, ma anche proprio dal punto di vista anche politico. Ecco, infatti uno degli aspetti interessanti del lavoro è proprio questo sguardo sul paese oggi, a partire dalla crisi ucraina al fatto che le indagini, le ricerche di questo bimbo scomparso siano affidate a un corpo di volontari, visto che insomma le strutture istituzionali non se ne possono occupare, e poi anche una certa ortodossia sia religiosa che diventa pervasiva anche nel lavoro, e per non parlare poi nel privato del dico solo nello specifico la mamma protagonista, però insomma ci sono persone anche quando lei gira sui mezzi pubblici tutti fissi davanti ai display dei propri telefonini. Sì, certamente, diciamo che la situazione politica fa un po' da sfondo alla vicenda, con appunto le notizie che arrivano dai televisori circa il conflitto in Ucraina, e al tempo stesso abbiamo anche come dicevi giustamente tu la risvolto delle istituzioni che poco hanno a cuore le sorti dei cittadini, ma compensate, se vogliamo, da una solidarietà quasi inaspettata di queste associazioni volontaristiche che sopperiscono alle mancanze dello Stato. E forse questa è l'unica nota positiva, se vogliamo, il fatto che i volontari di questa associazione mettono veramente anima e cuore nella ricerca del bambino, pur appunto essendo dei volontari e svolgendo un compito preziosissimo che a loro non spetterebbe. Forse nel film questo aspetto, direi, è forse il lato più positivo di questa società russa, che per il resto ne esce abbastanza male, direi. Sì. Senti, all'estero com'è andato? Ma ci sono state già alcune uscite, direi in Francia e in Inghilterra, direi abbastanza bene. Il film ovviamente si rivolge a un pubblico comunque di appassionati di cinefil, anche se rispetto all'ultimo film di Zaghintev, Leviathan, è senz'altro un film più ad ampio spettro, nel senso che la vicenda tocca le corde un po' di tutti, è una vicenda familiare che può essere vicina a tanti episodi che possono capitare anche nel nostro paese. Quindi, a differenza di Leviathan, che era una vicenda strettamente politica legata a delle situazioni caratterizzate proprio dalla Russia, dal paese dove erano svolte, questa vicenda è decisamente più universale, quindi probabilmente potrà essere ben interpretata e coinvolgerci emotivamente anche in Italia. Senti Alessandro, gli elementi che più ti hanno convinto di questo lavoro? Ma al di là della nota stilistica e fotografica che è sempre presente nei suoi film, già dal Ritorno, che aveva vinto il Leone d'Oro a Venezia un po' di anni fa, e poi a Leviathan, direi che come anche in Leviathan una cosa molto importante nei film di Zaghintev è la colonna sonora, veramente strepitosa. Senti, da ieri nelle sale, in quante sale? Bene, siamo sotto Natale, quindi i film commerciali la fanno da padrone, siamo all'incirca in una trentina di sale in tutta Italia, quindi è un numero però proporzionato per un film d'autore che viene selezionato dai locali dei cinema che si dedicano al cinema di qualità, e quindi le sale giuste per un film di questo tipo. Bene. Nelle principali città italiane ovviamente è ovunque, un po' meno in provincia, dove purtroppo chiaramente con la scarsità di schermi disponibili i film commerciali la fanno da padrone. Sì. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille a tutti voi, auguri. Ciao, auguri. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sulla distribuzione del film Loveless, in uscita in sala ieri mercoledì 6 dicembre, e con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta e la trasmissione sul sito internet, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce Trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.